do il benvenuto a Mario Spallino, autore insieme a Marta Gherardi e Raul Pantaleo della graphic novel Pugnali Neri, il saltimbanco che beffò il fascismo. Ciao Mario, benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao a voi e grazie dell'ospitalità. Allora Mario, siamo appunto qui per parlare un po' di Pugnali Neri, questa graphic novel edita da Becco Giallo. Vogliamo innanzitutto raccontare un po' il contesto in cui si svolge il fumetto, perché tra l'altro parla anche di fatti realmente accaduti. Sì, dunque, il contesto è il contesto dell'Italia fascista nel 1938, praticamente l'anno in cui il fascismo raccoglie il massimo consenso a livello nazionale. E i fatti che vengono raccontati naturalmente sono, diciamo, è una fiction che si basa però su personaggi e su fatti realmente accaduti. È chiaro che per raccontare questi fatti e questi personaggi abbiamo trovato l'espediente di un eroe mascherato. Questo perché? Perché ci è sembrato intanto che nella storia del fumetto un eroe mascherato che si occupasse, diciamo, o che una storia di un eroe mascherato che si svolgesse in quel periodo non c'era. In Italia non è mai stata fatta e quindi ci sembrava uno spazio, una nicchia da riempire, anche considerando quello che è il contesto attuale italiano, nel senso che secondo noi forse questo paese ha un problema di memoria rispetto a quello che è successo negli anni passati. E la graphic novel secondo noi era un buon mezzo, se non altro per cominciare a porci delle domande su questo periodo col quale dobbiamo fare i conti, che forse non abbiamo fatto i conti. A proposito appunto dei personaggi che stavi citando anche tu, no? Uno è un professore, uno è un eroe mascherato, appunto. Ci racconti qualcosa di più su questi protagonisti? Allora, l'eroe, partendo dall'eroe mascherato, intanto è un saltimbanco, nel senso che è un gitano, è un nomade. Lui all'inizio non sa né di essere antifascista e né tantomeno di essere un eroe mascherato. Diventerà tale attraverso l'incontro con il professore. Il professore è ispirato a uno di quei 12 professori universitari che rifiutarono di firmare praticamente le leggi fasciste che obbligavano, soggiogavano praticamente l'università al fascismo. E furono solo 12 questi professori che ebbero il coraggio di non firmare. Naturalmente non firmare comportava tutta una serie di conseguenze, ci voleva parecchio coraggio. L'incontro tra queste due persone, tra questo gitano e questo professore, da questo incontro scaturirà poi questo saltimbanco mascherato che sarà quello che praticamente guiderà le vicende di questo fumetto, ecco. Oggi ti posso dire che appunto un'altra delle caratteristiche è che un eroe mascherato, per di più gitano, non c'è mai stato, ecco. Diciamo che è un fumetto che in qualche modo vuole essere provocatorio, perché ha esplorato, diciamo, tutta una serie di cose che, almeno da quello che dalle ricerche che abbiamo fatto noi, non hanno precedenti. Un'altra cosa che sicuramente salta subito all'occhio è l'architettura di Roma, che è molto presente all'interno di tutto il fumetto. Si può considerare quasi come una sorta di personaggio, diciamo, secondario all'interno del racconto. Bravissima. Quella è un'altra delle caratteristiche che noi abbiamo, e soprattutto questo è un lavoro che ha fatto Raul Pantaleo di ricerca, che abbiamo voluto mettere in evidenza, tant'è vero che alcuni lettori più attenti si saranno accorti che ci sono degli edifici che a Roma non ci sono, ma che noi abbiamo voluto mettere lo stesso, perché in quel momento lì, a livello architettonico, qui ci vorrebbe Raul, che essendo un architetto saprebbe forse spiegare anche meglio, comunque a livello architettonico in Italia accadono delle cose importanti, importanti dal punto di vista proprio non solo architettonico ma anche di concetto dell'architettura. E diciamo anche questa un'altra delle conseguenze di quel periodo storico con il quale secondo me dovremmo rifare i conti, perché al di là delle polemiche dei simboli che ci sono, che non ci sono fascisti, sono delle opere architettoniche che sono ammirate da tutto il resto del mondo, hanno fatto scuola in tante parti d'Italia, ma in Europa, e anche quelle sono dei, chiamiamoli, degli esempi architettonici, a volte anche dei monumenti ai quali a volte si passa accanto senza neanche farci caso, e invece forse dovremmo anche quelli guardarli con un occhio diverso, perché è vero che sono stati fatti sotto un regime, ma sono stati fatti anche indipendentemente dal regime. Il loro concetto con cui sono stati costruiti a volte era celebrativo, ma a volte invece era estremamente nazionale. e quindi è stata un'altra di quelle cose di cui Raoul ha voluto farne un protagonista dell'architettura, come hai giustamente notato tu, e come è stato giustamente notato anche da Renzo Piano, che ci ha scritto dicendo che secondo lui questo fumetto è un ottimo modo di veicolare appunto l'architettura e di raccontare quello che l'architettura può rappresentare. Certo, a proposito appunto di questa collaborazione con, come dicevi tu, con Raoul, ma anche con Marta Gherardi, ti volevo chiedere come era avvenuta, come è stato scrivere un fumetto a più mani. Guarda, è stata un'avventura estremamente divertente, perché io all'inizio, quando ho scritto questa storia, sinceramente l'avevo scritta proprio per mio sfizio, era proprio una cosa che mi era venuta per mio sfizio, ma non mi sarei mai immaginato che venisse pubblicata, e tanto più da un editore importante come Mirko Giallo. Quello è stato merito di Raoul, che non solo ha creduto nell'operazione subito, ma soprattutto poi ha coinvolto Marta Gherardi, che è una disegnatrice, secondo me, che ha colto perfettamente e forse anzi ha migliorato molto quello che avevo scritto, tant'è vero che quando io ho toccato per la prima volta il libro con mano sono rimasto veramente stupito dal lavoro che mi ha fatto, perché è come io l'avevo scritto come se fosse un copione cinematografico, quindi non come fumetto vero e proprio. Il mio modo di scrivere era, io vengo dal teatro e dal cinema, quindi io sempre l'avevo visto proprio come un copione, e lei straordinariamente, con il montaggio che ha fatto dei disegni, è come se avesse reso perfettamente un linguaggio cinematografico, ha reso perfettamente e ha migliorato quello che io in qualche modo gli avevo dato, insomma, come copione. E non solo, è stato fatto un grande lavoro di ricerca storica, ma per dire, da come erano fatte le auto, le pistole, tutto è stato un lavoro, tant'è vero che effettivamente prima di essere editato, tra revisioni e tutto il resto, sono passati 2 annetti, è stato un lavoro abbastanza lungo prima di metterlo giù, insomma. Quindi Marta ha fatto poi un lavoro su questo bianco e nero durissimo, quasi da cinema espressionista tedesco, che secondo me solo per quello vale la pena di guardarlo al libro. Perfetto Mario, io ti ringrazio veramente per averci raccontato qualcosa di più sul vostro fumetto Pugnali Neri, e ricordo che insomma è già uscito in tutte le librerie per Becco Giallo Editore. Grazie ancora Mario. Grazie a te Rachele, a voi, grazie.